Perso in un abisso, fisso il vuoto, sto immobile. No, non mi muovo, è la dimostrazione di terrore. Immerso in paure, paranoie. L'acqua è come acido che corrode, la sabbia come polvere che esplode. Nel fondo un tesoro non esiste, ma vuoi cercarlo, il desiderio insiste. Cosa nascondono le acque più profonde? Verità nascoste, verità contorte, che scoprirai con il tempo, ma perderai ogni sentimento. Sogni premonitori, facce di avvoltoi, tornano in mente, anche se non vuoi. Mi sveglio e ci penso di nuovo, metta fuoco, ma dura poco. Tutto svanisce, il mistero si infittisce, infami strisciano da me tipo pisce. Ma sono poco paziente negli abissi, tutto si perde come sguardi fissi. Negli occhi leggi la tristezza, rifletti su sta vita, il cuore ti si spezza. Non va per niente bene, bloccato da catene. Negli abissi si nasconde ciò che non si vede.